Italia in controluce. Buongiorno da Daniele Biacchessi, oggi è il 31 di agosto, è la prima puntata di Italia in controluce. Oggi parliamo di musica con uno degli artisti migliori della scena italiana della canzone d'autore. Massimo Priviero, cantautore e musicista. Qual è lo stato dell'arte della musica in Italia? C'è ancora spazio per realizzare opere artistiche di qualità? Credo proprio di sì, spero di sì. Il momento è difficile, è complicato, però è un momento difficile e complicato che riguarda un pochino tutta la cultura in generale che si fa in Italia, e quindi automaticamente investe anche la musica e comunque l'espressività artistica a tutto tondo. Quest'estate c'è stata una polemica, diciamo, a distanza con Vasco Rossi. Bah, sai, polemica da parte mia nessuna, ovviamente. Io ho grande rispetto, grandissimo rispetto per Vasco, e quindi, anzi, devo dire che mi è capitato in alcune interviste che mi hanno fatto di manifestare la massima dolcezza, la massima carezza che si potesse fare a un grande artista che si è confessato anche una sua fragilità esistenziale. Tutto quello che secondo me è aria fritta è veramente stato il dibattito, le discussioni, i discorsi, le polemiche, le cose che sono venute dopo, quindi questo è stato abbastanza insopportabile perché non c'entra nulla, perché comunque, diciamo che, usando un termine comune, gossip del livello più basso, quindi onestamente lascia il tempo che trova. Avrei preferito che, partendo da alcune dichiarazioni di Vasco e di Vasco Rossi, il livello del dialogo sullo stato della musica in Italia, sullo stato della cultura popolare, si alzasse un pochino di più, insomma, ecco, quindi questa è la sostanza. Però c'è una diversità tra chi come te lavora su canzoni più impegnate, quindi fa, diciamo, della musica un impegno anche civile, un impegno, se vogliamo, anche politico, e chi forse ha dimenticato un po' le origini. Io credo che è un problema di sensibilità e di esigenze personali. Io credo che la musica abbia delle radici forti in certa cultura popolare, e quindi che automaticamente deve avere un aspetto forte di tipo civile, di tipo politico, nel senso nobile del termine. È un'esigenza che io sento, che io ho sempre sentito. Cioè, banalizzando, tu puoi partire dal bar per raccontare una storia, ma il bar ti serve per poi, diciamo, salire in cielo, usando sempre una metafora. Non credo che sia molto gratificante partire dal bar e restare nel bar, ecco, questo è detto così in due parole. Io ho sempre auspicato e ho sempre sperato molto che alcune rockstar, poche o presunte tali che ci sono anche in Italia, si schierassero in maniera più chiara e schierassero la loro musica, le loro canzoni. Schierarsi non vuol dire fare una dichiarazione più o meno forte o più o meno funzionale o più o meno di effetto. Questo non siamo capaci tutti, è una cosa che uno si sveglia mattina e dice: ah, che schifo che mi fa quello, che bello che è quell'altro. Questo non significa schierarsi, non... Schierarsi probabilmente a raccontare certe storie vuol dire certamente avere un altro tipo di sensibilità, fare un altro tipo di ricerca e raccontare certe cose del mondo su cui invece continuiamo ad avere gli occhi chiusi. E quindi questa è la mia opinione. Questo vuol dire schierarsi in maniera importante, e in quel caso lì, poi, se tu hai la fortuna e la capacità di avere davanti 80.000 persone, è chiaro che conta ancora di più, perché puoi arrivare a molta più gente. Parlare, non so, di memoria da una parte o di lotta alla mafia dall'altra è naturalmente forse più scomodo che non inviare messaggi, tra virgolette, più rassicuranti. Sì, lo è perché noi abbiamo una necessità ovviamente tu lo sai benissimo, abbiamo una necessità che è quella di mettere la nostra, le nostre storie, il nostro linguaggio, la nostra musica, i nostri racconti al fianco della parte debole nel mondo, cioè di raccontare le loro storie, di essere in qualche modo dei testimoni, di non avere mai la mancanza di coraggio in certe situazioni, di rinunciare magari anche a certe logiche commerciali pur di essere, non soltanto essere se stessi, ma essere appunto a fianco di questa gente. Quindi io sono così, tu sei così, altri artisti sono così, tanti altri invece evidentemente non credono che questa sia la parte importante, una parte importante della loro vita, della loro espressione artistica. Io, a me dispiace molto questo, anche perché la grande lezione che viene da grandi artisti americani che hanno fatto la storia è invece proprio questa qui, cioè quella Bob Dylan, Bruce Springsteen, solo per citarne alcuni. Certo, non avere mai paura, non di essere scomodo, ma come ti dicevo prima, non di essere scomodo con qualche dichiarazione estemporanea, di essere scomodo nel tuo lavoro, nelle storie che racconti, nella gente che non ha voce, a cui tu cerchi di dare voce. Questo è importante. Tu parlavi di ragazzi che lavorano e che lottano contro le mafie, che sono tantissime in Italia, non sono soltanto la mafia, ovviamente quella riconosciuta, ma sono le mafie spesso del quotidiano, delle difficoltà quotidiane. Noi dobbiamo parlare a questi ragazzi, a questa gente, a queste generazioni che in buona parte non hanno futuro, non hanno, o hanno un futuro difficilissimo, a cui è stato tolto il futuro, anche da quelle mafie a cui tu facevi riferimento. E noi dobbiamo essere al loro fianco, noi dobbiamo dargli in qualche modo, mettere la loro voce a fianco alla loro. Se poi la nostra voce, per la nostra storia, è riuscita a comunicare un po' di gente in più, questo è un dettaglio, è semplicemente quello che abbiamo fatto nella nostra vita, nel nostro mestiere, ma la nostra voce deve essere la loro voce, questo è quello che penso. E oggi Massimo Priviero che cosa sta scrivendo? Sta scrivendo l'album nuovo e sta cercando ancora di più di raccontare queste storie, oltre ovviamente a raccontare il mio modo di stare al mondo, e quindi sto scrivendo un album che avrà ancora di più un tasso, tra virgolette, un bisogno di poesia che mi sono sempre portato dietro, ancora più elevato, quindi magari sacrificherò una parte più energetica, più rock, tra virgolette, per privilegiare ancora di più la parte che possiamo definire letteraria. È un album che uscirà l'anno prossimo, nel 2012, e accanto a questo ci sono dei progetti che contemporaneamente stanno andando molto bene, storie dell'altra Italia che conosci molto bene, e altre cose che presuppongono un futuro, comunque un futuro prossimo di impegno, di lavoro, nel senso migliore. E quindi speriamo di avere forza e fiato per sostenerlo nei prossimi tempi. Italia in Controluce, la prima edizione, torniamo oggi alle 13:30 su Radio 24.